sono aperti oggi a Roma i cantieri della città dell'altra economia, uno spazio permanente dell'economia solidare nel cuore di Roma, 3.500 metri quadri di esposizione, vendite, laboratori, mostri, seminari e spettacoli. La città, unica in Europa nel suo genere, sarà l'iniziale strumento per promuovere un vero e proprio distretto di economia solidale a Roma. Siamo con Roberto Dati, che per l'associazione RAM, che si occupa di turismo sostenibile, ha partecipato al tavolo dell'altra economia che è tra i promotori di questo progetto. Ci vuoi spiegare in sintesi quali sono stati i percorsi per arrivare ad ottenere questo spazio e le difficoltà che avete incontrato? Il percorso che abbiamo seguito ormai risale a parecchi anni. C'è stata inizialmente è iniziato con una festa dell'economia alternativa che si è fatta per prima volta nello spazio dell'ex mattatoio di Testaccio nel 99 e successivamente è proseguito questo cammino anche grazie al dialogo molto costruttivo che si è stabilito con il comune tra il comune e le associazioni, e quindi abbiamo proseguito in questa tradizione di fare una festa dedicata a tutte le forme di consumo alternativo e critico, insomma, quindi rispetto ai modelli dominanti, sotto Natale, un po' provocatoriamente. Insomma. Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato? Le difficoltà sono quelle di dare continuità, insomma in 5 anni riuscire a mantenere questo appuntamento e soprattutto il lavoro che è alla base di questi appuntamenti, che sono arrivati poi fino alla scadenza, alla data odierna in cui si inaugurano i cantieri per costruire uno spazio stabile, e quindi ecco, ci è voluto l'impegno di tutti quanti per mantenere sia con l'amministrazione, che si è sempre dimostrata disponibile, ma purtroppo sappiamo che a volte è vincolata da lacci e insomma ostacoli che a volte non dipendono dalla volontà di chi poi ha la responsabilità dell'amministrazione. La città dell'altra economia si trova all'interno del famoso centro sociale dell'Agio Globale nel quartiere Testaccio di Roma. Servirà ad aprire maggiormente questo luogo di incontro sociale anche per le società civile? Sì, è quello che speriamo. Cioè, noi non vogliamo che questa sia una cittadella chiusa in se stessa, ma che sia un luogo di incontro. In effetti la finalità è proprio quella di costruire una sorta di vetrina delle iniziative, delle attività per la costruzione di una economia solidale, aprirla, appunto, una vetrina che sia aperta a tutta la città, e quindi speriamo di incontrarla, la città qui, e di fare di questa città un luogo di un laboratorio di idee e di iniziative. Ricordiamo che l'inaugurazione è prevista per l'inizio del 2006. Dalla città dell'altra economia, Lorenzo Nania, Amisnet.